Saluto in modo particolare gli studenti del corso superiore di scienze religiose che hanno avuto le 2 ore a disposizione per partecipare a questo incontro. Il professor Eugenio Roger, il nostro direttore, questa mattina ha salutato e introdotto la giornata di dibattito tra sociologi e teologi sul tema del futuro, e dicendo che questa sera era impedito di partecipare, per cui ha chiesto al professor Franco De Marchi, che è il decano dei sociologi trentini, di sostituirlo. È evidente che questa è una fortuna per noi, insomma, avere il professor De Marchi come animatore di questa presentazione. Ecco, oltre a essere sociologo raffinato, è anche un profondo teologo, perché lo scorso anno ho celebrato i 50 anni di messa, e quindi abbiamo delle competenze che si uniscono. Allora, a lui la parola, e poi nel programma stabilito sarebbero stati previsti gli interventi del professor Renzo Gubert, il quale ha partecipato stamattina al lavoro e anche nel pomeriggio, e purtroppo per gli impegni che tutti conosciamo è stato chiamato d'urgenza a risolvere problemi di carattere non propriamente scientifico. Poi c'è il professor Clemente Lanzetti dell'Università Cattolica di Milano, che ha mandato un fax dicendo appunto di essere ammalato e di non poter partecipare. Comunque c'è il professor Antonio Marangon, teologo, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Venezie, e Salvatore Abruzzese, sociologo dell'Università di Trento. La parola al professor De Marchi. Questo libro che vogliamo illustrare e raccomandare in questa occasione, Immagini della religiosità in Italia, è un libro coletaneo guidato da Brugalassi Silvano, che è un po' il decano dei sociologi della religione in Italia, e con la collaborazione di 2 più giovani ma audaci cultori della materia, Carlo Prandi e Stefano Martelli. Ci siamo preparati a questo compito proprio stamane e anche il pomeriggio, discutendo sul rapporto tra teologia e sociologia sotto angolature diverse. Il colloquio, che è durato pressappoco 5 ore, è stato molto ampio, molto pensato, direi. I contributi, mi pare, di più di 20 relatori che sono intervenuti, si hanno dimostrato che è il primo, veramente il primo colloquio in argomento, per cui io ho trovato alcune carenze che mi sembra che debbano essere riempite se vogliamo continuarla questa iniziativa, perché è importantissima, ce ne si rende sempre più importanza, che non si può fare sociologia della religione senza conoscere quello che fino adesso, oramai da secoli, hanno pensato della religione, della religiosità. I teologi non possono affrontare la complessità della situazione contemporanea, 5 miliardi e mezzo di persone, con la semplicità, così, con quell'interpretazione intuitiva della storia e dei fatti che si poteva avere 100 anni fa. E quindi anch'essi ricorrono a tante discipline. La Civiltà Cattolica insiste molto e spesso su questa opportunità che c'è di confrontare la disciplina teologica con le altre discipline che convivono con essa nello stesso tempo e anche spesso nello stesso mondo. Ma io ritengo che tanto più la situazione diventa grave, quanto più si sviluppa il dialogo interreligioso, perché avrà come conseguenza il fatto che non possiamo trattare il partner come un discepolo dall'alto in basso, perché riteniamo di avere una religione più rivelata o più giusta o più vera. Non diciamo, come in passato, che sia l'unica vera nostra, che le altre non abbiano germi di verità, questo oramai è accettato, ma quali sono questi germi? Per farceli raccontare da chi li vive, da chi li sviluppa nelle loro stesse religioni, è necessario mettersi su un piano proprio di pensiero, cresciuto in ambienti totalmente diversi, specialmente dell'Asia centro-orientale, nella nostra stessa religione. e come ulteriore conseguenza che il popolo a vederci a braccetto con gli altri esponenti delle regioni finisce col pensare che tutte le religioni si equivalgono e quindi il senso di appartenenza alla nostra religione, che ha delle motivazioni per noi molto valide e serie sul piano teologico, però viene a diluirsi, a smarrirsi. Questa è una problematica che penso dovrà diventare velocissima, non dico nel futuro escatologico, ma nel futuro di breve scadenza, 10, 20, 30 anni. Se seguite nella storia del pensiero teologico, anche del pensiero missionario, nella sua applicazione pratica degli ultimi 30 anni, vediamo un'avanzata di questa impostazione, di questa problematica in termini sempre più allarmanti e sempre più urgenti, perché richiedono da parte nostra una riflessione che deve essere tradursi in scelte fedeli al contenuto della tradizione, ma nello stesso tempo attuali e quindi in certo senso apostoliche, altrimenti non comunichiamo niente di quello che è essenziale nel nostro lavoro. Vedete come si facevano delle guerre per la problematica delle reliquie nel 1500, no? Oggi pensiamo che non valga la pena. Certe problematiche religiose, anche carissime, passano in secondo ordine rispetto alla sensibilità religiosa e alla problematica religiosa di qualche secolo fa. Ma probabilmente anche nel nostro stesso tempo c'è una evoluzione di problemi che non ci sognavamo. Chi si sognava il problema 10 anni fa o 20 anni fa del sacerdozio delle donne? Se ne parlava qua e là nelle sacrestie di Milano, venivano a raccontarvelo, sembrava cervellate, no? E in realtà è diventato un problema angosciosissimo nei rapporti con la Chiesa anglicana. Siamo preparati a discuterlo, non basta mica dire sbagliate. Sì, è vero che anche probabilmente sbagliano, ma bisogna avere una ragione, ma probabilmente il nostro ritardo nell'affrontare il problema del rapporto dei due sessi è grave, questo ritardo. A questo proposito mi riferisco a Padre Shockley, il quale insiste a spiegare che in tutta la Bibbia c'è il problema della complementarità dei due ruoli e che risulta anche da una migliore lettura del Vangelo di quella che è stata tradotta e che leggiamo nella traduzione greco-latina nei testi originari. Allora, problemi urgentissimi oggi, non siamo preparati ad affrontarli. Un altro problema, presbiteri laici da 25 anni non ce ne sono più, sacerdoti presto. Che cosa vuol dire allora questo connubio, questa identificazione del presbiterato col sacerdote, classica ma non originaria della Chiesa? Non è originaria. Originaria è la gerarchia che certamente almeno nel 250 d.C., ma vigorosissimamente sviluppata sia nei paesi di lingua greca che a Roma, vero? La gerarchia dei sette ordini, no? Che poi abbiamo tutto ridotto nel Medioevo ad uno solo. Una problematica quindi che va affrontata, direi anche utilmente, al di là di questa contrapposizione di laici e sacerdoti e questa speranza di supplenza di bravi laici, quali non hanno fedeltà al vescovo, giuramento fedeltà, non hanno il celibato, possono avere la famiglia, insomma tanti impegni che non sono strettamente liturgici o catechetici, no, catechetici abbiamo lasciato ai laici anche quella, sono problemi che buttiamo lì senza capire che hanno tutta una problematica di riflessione sociologica tra l'intuizione o la convenienza del giorno e la tradizione del pensiero teologico e liturgico, eccetera. Sono cose che ci denunciano l'importanza di, altro che questo come io qui, bisognerà farne ancora per capire meglio. Un altro discorso, quello del dialogo, in una visione per esempio di sociologia relazionale, come avanza con coraggio il collega Donati, e l'altra impostazione classica, quella del magistero. Non è che siano antitetici, ma devono essere complementari. Ma finché la problematica del dialogo non viene trattata, non c'è nessun discorso di complementarità. Siamo abituati a risolvere tutte le problemazioni in termini scolastici, da alto in basso, e senza una prorogazione di una rilevazione di quello che pensa l'area popolare, il basso, che non può essere preso come sempre avviene. La gente dice, tutti dicono, e no, la sociologia insegna che non si può generalizzare a vanvera. Bisogna dire fin dove quantitativamente e anche qualitativamente si esprime dal basso una richiesta di riflessione preventiva a tutte le attività decisionali della Chiesa. Questa è una problematica del giorno, che è l'immediato futuro. Non andiamo al futuro escatologico, per carità, su quale la teologia ha detto tantissime belle cose, ma che non sono immediatamente attuali, salvo il fatto che moriamo e poi saremo giudicati da Dio. Ma non è il fine ultimo della storia che ci interessa, ma è proprio questo scorcio di breve tempo. Ma pensate poi la difficoltà relazionale che esiste tra la teologia asiatica e la nostra, la sociologia sudamericana e la nostra. Sono addirittura conflittuali, naturalmente si mette olio dappertutto per non arrivare, non dico a scismi, ma neanche a forme di contrapposizione grave. Quello asiatico non è conosciuto. Poco niente da noi, quello americano sì, perché il rimbombo è facile, ma adesso sorge anche una teologia africana e stiamo lì a guardare. Ora questo confrontarsi, semmai contrapporsi o intendersi a distanze di continenti avrà pure un problema preventivo rispetto alle decisioni dei teologi, un fatto preventivo che è quello appunto dell'interpretazione sociologica del perché si formano in questi diversi continenti delle visioni molto diverse di tutta la problematica ecclesiale, almeno teologica pastorale, anche teologico morale, per tanti aspetti. Ora, io ho trovato chiaramente un riferimento alla distinzione che per noi, io sono abbastanza vecchio, più di 50 anni di prete, tra distinzione tra teologia fondamentale, che tradizionalmente si diceva teodicea, vero? E teologia rivelata, che Dio è trino, la riflessione razionale sulla divinità non lo sa, non ne ha mai trattato. Viene fuori dalla riflessione teologica sul Vangelo, dopo la quale viene il grande discorso del Trinitate Dei di Sant'Agostino, dei padri orientali. Ma, per esempio, Weber insisteva molto sulla teodicea. E chi lo rievoca? Questa riflessione razionale intorno al problema dell'ente supremo e del fine ultimo. Questo è un tipo di teologia che il sociologo non può prescindere, perché è universale. Non in forme dottrinali sempre, ma in forme almeno di sensibilità religiosa, questa è universale, con tutta la problematica che ne consegue della manifestazione della divinità, più o meno valide, vero o altro. Ma la dottrina rivelata, che si fonda non tanto sul principio casualità quanto su quello della ragione sufficiente, non è altro che sufficiente il fatto che il Vangelo illustra Dio soprattutto come amore, ma delle altre religioni lo illustrano in questi termini, nei rapporti che si possono avere con gli indù e con i buddhisti, sono ammiratissimi della nostra carità, anche materiale e spirituale, perché dalle loro religioni non è venuta fuori. Lo stesso l'Islam, poi ci ricopiano, non è da prendere questo in termini apologetici per vantarci, ma piuttosto in termini scientifici e sociologici per capire perché noi abbiamo avuto questo sviluppo di beneficenza universale che va al di là dell'appartenenza etica o meno e che vedete quanto è attuale in questo clima, per esempio in Bosnia. Ora, un'altra tematica, quando si domanda chi pensi che sia Cristo, ora, l'abbiamo ben sviluppato nella sua impostazione biblica. Quando tutti dicono, dici delle parole meravigliose, parole di verità, certamente sei il figlio di Dio. Cristo non contraddice. Ma risponde sempre dicendo, io sono il figlio dell'uomo. E questo succede 83 volte nei Vangeli. Ma perché questa contrapposizione ad una verità che è autentica, che è il Barabbi, è il maestro davvero, è figlio di Dio, figlio della verità, esponente della verità, però si proclama figlio di Dio, è figlio dell'uomo. È il termine che viene dal profeta Daniele. E che significa, sono la vittima riparatrice di tutti i peccati del mondo. Donde il culto eucaristico, donde il culto del Sacro Cuore anche, tutto questo filone di riflessioni che saltano fuori dal Vangelo, si sviluppa un po' tardi questa distinzione nella storia, non è una distinzione da portare a separazione, ma vuol dire che accettare il Cristo anche come rivelatore della verità suprema non è sufficiente per il Cristo. Bisogna interpretarlo anche come vittima riparatrice del peccato, quello che vulgarmente diciamo ostia santa e che per noi è sostanziale nella religione vissuta. che ci insegna quindi a sopportare il dolore e a viverlo in termini produttivi, mentre il dolore è sempre sentito, anche la morte, come in termini negativi, come soppressione dei valori della dignità umana. Ora, questa riflessione direi che bisogna farla entrare anche nei questionari, quando si fanno sempre dappertutto questi questionari religiosi, fin dove si intende Cristo come maestro, e va bene, ricordato o no, oppure anche fin dove si intende Cristo come colui che risolve tutta la problematica del dolore dell'umanità attraverso il sacrificio personale e ci invita ad imitarlo in questi termini. Anche questa distinzione, che è fondamentale anche in sociologia, come rilancio in sociologia, fino adesso non viene tradotta in comunicazione dai teologi a noi scienziati di scienze con termini. Ora, queste sono le riflessioni fondamentali che io ritengo necessarissimo affrontare nel studio del futuro immediato, non futuro prossimo, insomma, che può abbracciare questi 50 anni prossimi. Mi è piaciuto molto che questo libro sia intitolato Immagini. Fino adesso siamo abituati a un'impostazione dall'alto in basso, magisteriale, dottrine, no? Orientamenti di fondo, ma questa è Immagini. Come viene fuori quindi dalla riflessione sociologica la religiosità, che poi non si identifica evidentemente con la religione, ma è un aspetto molto, molto importante, accessibile anche per noi sociologi, perché con la metodologia del questionario, delle rilevazioni empiriche possiamo constatarlo. Guardate però che quelle rilevazioni sono provvisorie, sia perché la metodologia della ricerca è in continua evoluzione e perfezionamento, in secondo luogo perché effettivamente i questionari anch'essi vanno perfezionati continuamente e vanno perfezionati in ordine alla nostra preparazione ad affrontare il problema. Ora, la preparazione di ieri non è quella di oggi e non sarà quella di domani, crescerà anche questa. E poi, se ci confrontiamo col mondo germanico, io appunto ho favorito lo sviluppo di questi rapporti con la Germania, con una rivista apposita di sociologia, io mi trovo sempre, dal punto di vista dell'impostazione metodologica, anche espositiva, sono 10 anni più avanti e restano 10 anni più avanti. Non arriviamo a accedere al mondo germanico facilmente per la difficoltà linguistica, ma non possiamo sempre attendere le interpretazioni che ne danno gli americani e i francesi. Dobbiamo accedere direttamente. Ora, tedeschi che vengono volontariamente anche di alto livello scientifico in Italia, li conoscete, sono tanti, ma vanno anche utilizzati in termini colloquiali, perché la loro esperienza, importantissima, si traduca anche per un contributo di crescita della nostra sociologia, della nostra comprensione, della nostra comprensione della situazione religiosa del nostro paese. Allora vorrei sentire i due correlatori che hanno studiato il testo, le loro interpretazioni.